Buon pomeriggio a Ilaria della casa editrice Capovolte, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko, Ilaria. Grazie mille del vostro invito, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, innanzitutto, per chi non vi conoscesse, che cos'è la casa editrice Capovolte? È una piccola realtà indipendente nata ad Alessandria 2 anni fa, quindi nel 2019. Siamo una casa editrice indipendente, femminista, che vuole raccontare le donne con una prospettiva di genere, insomma, questo è un po' il nostro obiettivo. Facciamo saggistica e abbiamo 3 collane, una più sociopolitica, si chiama Ribelle, una dedicata allo sport femminile, che abbiamo chiamato Dinamica, e una invece che abbiamo chiamato Intersezioni, e che invece è una collana di pensiero femminista che sta cercando di portare un po' di nomi nuovi ancora poco conosciuti in Italia, con una prospettiva, diciamo, particolare sul femminismo decoloniale. Questo è il principale interesse. Ci puoi raccontare qualche nome nel catalogo magari di queste collane e anche come selezionate i libri da mettere all'interno del catalogo, appunto? Sì, allora, in questa collana Intersezioni in particolare sono i nomi un pochino, diciamo, più rilevanti, perché sono nomi anche con un valore anche internazionale. Abbiamo iniziato lo scorso anno con la filosofa brasiliana Jamila Ribeiro, che è un nome molto importante del femminismo nero e decoloniale anche appunto a livello internazionale, e quest'anno invece abbiamo tradotto Grada Quilomba, che è una autrice e artista portoghese, un'artista interdisciplinare che si occupa in particolare del tema della memoria e del trauma, del razzismo e del passato coloniale. E poi abbiamo tante autrici italiane anche molto brave che hanno contribuito al nostro catalogo, in particolare ne cito qualcuna. Noi siamo partiti nel 2019, il primo libro che abbiamo pubblicato è un libro su Marielly Franco, è una figura a cui noi siamo particolarmente affezionate, attivista politica brasiliana purtroppo uccisa nel 2018 a Rio de Janeiro, ed il libro su di lei è stato scritto da Agnese Gazzera, giornalista e cara amica. E poi tra gli altri nomi, ad esempio, abbiamo Manuela Mellini, che è un'autrice con cui abbiamo pubblicato quest'anno un libro della collana Dinamica sul tema della bicicletta, quindi la bicicletta come strumento di, diciamo, di emancipazione, di battaglia e di rivoluzioni per le donne. Il libro si chiama La strada si conquista. E per venire all'altra tua domanda, come selezioniamo i testi? Allora, l'idea di Capovolta è quella di essere innanzitutto una casa editrice non a pagamento, noi lo diciamo subito perché ci teniamo, quindi pubblichiamo poche cose ma molto selezionate, quindi cerchiamo di raccogliere suggestioni che ci arrivano, sia come manoscritti, sia come idee, anche di traduzioni eventualmente, però appunto cercando di inserirli in un catalogo ragionato e che possa essere comunque attento sia alle tematiche ma anche al pubblico che riceve il nostro discorso che cerchiamo di proporre. E facciamo appunto una selezione abbastanza attenta sia sui temi sia sui nomi comunque da pubblicare. Cerchiamo di dare un po' una linea editoriale che sia abbastanza precisa e riconoscibile. Insomma, in questi anni i titoli che abbiamo pubblicato sono 9, quindi non sono moltissimi, però tutti abbastanza mirati sul tema. Certo, perché avete avuto questa idea di far nascere una casa editrice appunto femminista, quindi molto posizionata, diciamo così? In realtà l'idea è mia personale, io sono una giornalista, quindi nasco come giornalista, ho lavorato tanti anni in agenzia stampa e mi sono occupata in particolare di esteri, però nel mio percorso ho seguito anche lo sport e altre tematiche come l'ambiente e il lavoro. Quando a un certo punto ho deciso di lasciare il lavoro in agenzia, ho cercato di dare vita a un progetto che potesse in qualche modo includere, diciamo, alcuni miei interessi ma anche alcune mie prospettive politiche. Io sono comunque un'attivista di non una di meno, faccio parte della Casa delle Donne di Alessandria e ho un impegno, diciamo, politico anche in quella direzione, e quindi il progetto che poi ho costruito in realtà insieme a una rete di altre donne, di altre persone che stanno ancora contribuendo e ovviamente cerco di portare avanti il discorso in maniera più collettiva possibile, va in quella direzione, va nella direzione, cioè, della consapevolezza di vivere in una società dove purtroppo ancora la violenza di genere è una situazione, diciamo, diffusa a livello anche strutturale, quindi non soltanto per quel che riguarda l'aspetto più drammatico della violenza e quindi i maltrattamenti ovviamente o comunque il discorso femminicidi, ma una violenza che veramente permea la nostra società in tante dimensioni, e la parte culturale era un po' la risposta che ho cercato di dare, e ad esempio anche, diciamo, l'interesse e la volontà di inserire un tema come quello sportivo va proprio in questa direzione, cioè la violenza di genere si combatte ragionando e ampliando il discorso anche a settori dove magari tante volte il tema femminista non è così scontato, e lo sport è uno di questi, è un grande veicolo di inclusione, se vogliamo, sociale, ma dove magari purtroppo ci sono ancora delle situazioni che denotano un arretramento da questo punto di vista. E quindi l'idea è un po' questa, provare a incidere un po' sulla società anche attraverso i libri. Certamente. E per chi non fosse di Alessandria, insomma, come ad esempio noi qui da Bologna, si possono ordinare online i vostri libri? Vogliamo ricordare un sito? Sì, assolutamente. Allora, il sito è capovolte.it, quindi è molto semplice, però noi siamo distribuite in tutta Italia, quindi ci trovate in tutte le librerie. Ad esempio a Bologna siamo alla Libreria delle Donne fin dagli inizi, quindi sono molto contenta di questa collaborazione che è nata fin da subito. Visto che si parla di Bologna, abbiamo una presentazione nei prossimi giorni che sarà il 16 di ottobre con proprio Manuela Mellini, con il libro La strada si conquista, in via D'Azeglio, se non sbaglio, questa è la libreria Mondadori Bookstore. I nostri libri comunque si trovano online sul nostro sito, ci potete scrivere per qualsiasi curiosità o proposta, e anche sui nostri canali social. Perfetto, io Ilaria ti ringrazio per averci raccontato da più vicino la vostra casa editrice Capovolte. Grazie ancora. Grazie mille a voi.